La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci qua amici, un saluto da Franco D'Assisti. Siamo di nuovo insieme nel weekend cinematografico di Radio 24 per parlare di tutte le novità in questo weekend di metà settembre, che comincia a essere sufficientemente significativo per la portata dei film che arrivano in sala, per il fatto che pare le temperature debbano abbassarsi e quindi, come dire, il cinema ricomincia ad essere anche un rifugio preferenziale per gli italiani. È una settimana densa di titoli in uscita, di grandi film in uscita, e noi li affronteremo uno per uno, raccontandoveli come sempre, consigliandoveli. Non mancherà lo spazio per giocare, per provare a vincere i grandi film in DVD e Blu-ray, le recensioni, l'home video, le segnalazioni TV, insomma tutto quello che fa cinema, come sempre qui alla Rosa Purpurea. Allora cominciamo a sentire e a condensare i contenuti principali della trasmissione nei nostri titoli di testa. Un gioco al massacro nella borghesia di New York è Carnage, il nuovo capolavoro da salotto di Roman Polanski, che ha incantato Venezia e sbarca in sala, sostenuto da un cast di attori straordinari. Come gestire i fantasmi di un passato ingombrante e doloroso? Si può vivere nella menzogna? Sono gli interrogativi al centro de Il debito, storia di tre agenti del Mossad alle prese con le loro coscienze, con Helen Mirren e Tom Wilkinson. L'onore perduto, un padre ucciso in battaglia, il desiderio di riscatto. Channing Tatum è il protagonista di The Eagle, l'aquila dell'impero romano, al centro della battaglia contro i britanni e contro se stessi. I puffi sono così, e ora anche in 3D. Gli omini blu fanno il grande salto dal fumetto al grande schermo, colorando d'azzurro anche il Central Park, per i bambini di oggi e quelli di ieri. E allora cominciamo dalla fine, è stato l'ultimo titolo, la canzoncina dei Puffi la ricordate, noi Puffi siamo così, e noi scherzando abbiamo detto e siamo anche in 3D, perché effettivamente arriva questa grande produzione, grandissima produzione dei Puffi, che finalmente diventano oggetto cinematografico vero. Le tecnologie di oggi lo permettono, forse quelle di qualche tempo fa non lo permettevano, almeno in termini di film vero e proprio. L'animazione e il disegno animato erano l'unica frontiera possibile per questi buffi personaggi. Ora, quale target sono andati a cercare i produttori? Quale tipo di film sia venuto fuori? Noi ce lo facciamo raccontare dalla nostra Chiara Pizzimenti. Nessuno sa da dove sono venuti, ma ormai sono arrivati. Sì, avete sentito bene, si puffi chi può. E c'è solo un popolo sulla Terra che parla così, gli strani ometti blu alti due mele o poco più. Questa volta però non devono affrontare il perfido Gargamella nella loro foresta, ma in trasferta a New York. Un portale magico conduce Grande Puffo, Puffetta, Tontolone e Quattr'occhi nel mezzo di Central Park. Ci stanno attaccando! Non farti abbindolare dalla loro simpatia! Sono carini! Esatto, brutto gigante pallido! Mi sto proprio venendo da puffare! Così i nostri piccoli eroi incontrano Patrick e Grace, giovane coppia in attesa di un bambino, che li aiuterà a tornare nel bosco sconfiggendo il nemico di sempre, anche lui arrivato nella grande mela. Harry, scorta fuori questo mentecato! Mentecato? Sicurezza! Io sono il grande e potente Gargamella! Mentecato! Un mentecato può fare questo? Alla capa! Come ci è riuscito? Sì, la scongiuro. Ora lo faccio a me. Ovviamente, in gita a New York nel nuovo millennio, i puffi non si fanno mancare nulla. Un giro in taxi, carro motorizzato per loro, una navigata in internet, la finestra magica alla ricerca di se stessi, una sessione di Guitar Hero e una gonna svolazzante alla Marilyn Monroe per la biondina del gruppo. Chi siano non lo so. Gli strani ometti blu sono alti su per giù, due mele poco più. Un consiglio: non puffate a vederlo se avete più di 10 anni e non accompagnate un bambino. Tutto è a misura di piccoli, la morale come le battute, in questo mix di animazione in computer grafica e attori in carne ed ossa, diretto da Ryan Gosnell, già autore di Scooby-Doo e Beverly Hills Chihuahua. Il tocco della matita di Peio si perde un po' nei passaggi che dal fumetto portano al grande schermo. Chi ricorda i cartoni anni 80 stenta a sorridere. In sala, però, chi i cartoni animati li vede adesso si diverte molto. A me mi è piaciuto tutto, ma la parte più bella è stata alla fine che ha detto non mi guardate! Mi è piaciuto come è fatto, cioè è buffo. Quando Birba ha detto sei morto a Gargamel. Perché è animato, ci sono le persone, invece nei cartoni c'è solo Gargamel e Puffy. Nuovi puffi, perché a noi ci piacciono molto i puffi e poi anche perché sono teneri. Cioè, io avevo visto il cartone, però ora ho visto il film e mi è piaciuto un casino. Ebbene, questi erano i Puffi, quindi al cinema, nei cinema di tutta Italia, come abbiamo detto, per i bambini di oggi, ma soprattutto per quelli di ieri, perché saranno molti i quarantenni di oggi curiosi di vedere che fine hanno fatto i Puffi al cinema. In seguito a una discussione, Zachary Cowen, di 11 anni, è armato di un bastone. Armato? Michael, come si potrebbe dire? Che aveva... Meglio impugnava o aveva un bastone? Aveva, sì. Aveva un bastone. E insomma, già da queste poche parole si capisce che siamo di fronte a un film di una raffinatezza verbale, nei dialoghi, nei modi, negli atteggiamenti straordinaria. Carnage di Roman Polanski, e come avete sentito, questo è un po' l'inizio di tutto. Il film comincia con una panoramica sullo sfondo, alcuni bambini che giocano in un parco di New York. A un certo punto, sempre molto da lontano, vediamo un bambino brandire un bastone. Ecco, forse brandire era giusto che cercavano i genitori in questo tentativo di riconciliazione, brandire un bastone e colpire al volto un altro bambino. Cose che possono essere capitate, possono capitare, diciamo che è meglio che non capitino. E i quattro genitori, quelli del bambino, fra virgolette, aggressore, quello dell'aggredito, sfregiato con i punti in faccia, si trovano a casa dei genitori della vittima, diciamo così, per cercare di riconciliarsi, per cercare un modo. E quella che avete sentito era la lettera che la mamma del bambino aggressore sta scrivendo. Diamo un ruolo a tutti. I genitori dell'aggressore sono Christoph Waltz e Kate Winslet. I genitori del bambino vittima sono John C. Reilly e Jodie Foster. Quattro attori straordinari per questa che è una vera e propria commedia. Allora, il tentativo di riconciliazione sembra partire bene, troviamo i termini giusti, insomma ci scusiamo anche ufficialmente, forse questa lettera serve alle assicurazioni per poi ricevere indietro i soldi del danno, ma questa seduta che si svolge tutta nel salotto di casa di Jodie Foster e John C. Reilly diventa subito qualcosa di più aspro. Si capisce che la differenza anche un po' di ceto sociale, da una parte una middle class di sinistra, diciamo così, quella dei bambini, del bambino vittima, dall'altra una upper class newyorkese, un avvocato col pelo sullo stomaco, Christoph Waltz, una mamma tutta gentile, dai modi raffinati, insomma si capisce che queste due anime non hanno la grande capacità di stare insieme, e infatti le schegge, le scintille cominciano subito. Però questo è Carnage, questo è Carnage che vuol dire carneficina. La carneficina non c'è nel film, è solo però, anzi c'è, ma è verbale, è il modo in cui queste due famiglie si affrontano. È un film straordinario che ha stregato il Festival di Venezia e che ha una radice importante, anzi due radici importanti. Prima di tutto la pièce teatrale che è stata scritta da Yasmina Reza e che è stata poi una commedia di grandissimo successo a Broadway. Noi abbiamo preparato questo estratto in lingua originale, in inglese, ve lo voglio far ascoltare, sentiamo. This hamster makes the most god-awful racket all night long and then spends the whole day fast asleep. Henry was in a lot of pain last night. He was being driven crazy by the noise that the hamster was making. And to tell you the truth, I've wanted to get rid of it for a while now. So I said to myself, okay, that's it, and I took it and I put it in the street. Ecco, quello che avete sentito è James Gandolfini, Sopranos, per intenderci, che recita a Broadway, anche lì Marcia Gay Harden, grandissimi attori, anche volti noti del cinema, nella commedia On Stage, che è stato un successo clamoroso, come dicevo, e che Roman Polanski porta al cinema, una commedia da salotto, potremmo definirla, dove però appunto ci si scambiano colpi bassi uno dietro l'altro. Infatti, le due famiglie, come dicevo, dopo un inizio di riconciliazione che sembrava andare a buon fine, cominciano ad avere dei dissapori sempre crescenti. Sentiamo. Sono carini, vero? Coppia carina. Molto. Sì, Walter. Sai che dovremmo mandare una lettera al direttore? Si sarà reso conto di aver sfigurato il suo compagno. Mio figlio non ha sfigurato vostro figlio. Che pezzo di merda, com'è che la chiama? Sgorbio. Sì, ecco, Sgorbio. Sgorbio? Sì, la chiamo Sgorbio. Scusate, sì? Basta, Alan! Basta con questo cellulare, una volta per tutte, maledizione! Ecco, la situazione, come dicevo, precipita. Il cellulare dell'avvocato Christoph Waltz che continua a suonare. Lui, tra l'altro, difende una casa farmaceutica cercando di non far uscire la notizia che un farmaco è molto, molto nocivo. E questo farmaco viene usato dalla mamma di John C. Reilly, quindi c'è anche questa lettura. Insomma, il film non si muoverà mai da questa stanza. Nonostante i tentativi di dire, beh, salutiamoci e rivediamoci, alla fine qualcosa, quasi un magnetismo, tiene i quattro protagonisti lì a continuare a litigare in un crescendo che fa saltare poi il velo delle ipocrisie, che è poi il tema molto polanskiano di questo film. Queste coppie che prima cominciano per bene e poi si svelano per quello che veramente sono, tra l'altro creando anche degli intrecci che vanno oltre le coppie. I due uomini si coalizzano nel nome, se vogliamo, di un maschilismo fondato. Dall'altra parte le donne trovano, prima litigano, poi trovano un modo per stare insieme, e alla fine le epilogo è davvero surreale, perché mentre nella casa si litiga e ci si spacca in quattro, tutto sommato notiamo che ai bambini tutto questo non gliene frega niente. Credo nel dio del massacro, il dio che governa indiscusso dalla notte dei tempi. Non ne posso più di tutte queste stronzate buoniste. E poi io sono un figlio di puttana con un brutto carattere, ok? Alan, devi intervenire! Alan, devi intervenire! Chiudi quella boccaccia! E allora, Roman Polanski cosa fa? Dice, pièce teatrale, affermata, si svolge in fondo in un'unità di luogo che è questo salotto, niente più di teatro al cinema. Sbagliato. Cinema all'ennesima potenza, perché quello che ci mette Roman Polanski è lo sguardo, l'inquadratura, il montaggio che è frenetico, è davvero di grandissimo ritmo, sono le battute, sono le sfumature che la lontananza del palco teatrale non possono dare. C'è veramente tanto cinema e ci sono quattro attori in totale grande forma. Cominciamo a sentirne un paio, cominciando da John C. Reilly, uno di quei volti più famosi del suo nome, una faccia da Shrek nel film Il papà della vittima, con un lavoro che è quello di venditore di pentole, ma un uomo che, come avete sentito anche nell'ultima clip, alla fine tira fuori veramente la sua anima. Com'è stato lavorare a questo personaggio? Ho cercato di affrontare le circostanze nel modo più naturale possibile e ho cercato di essere il più possibile onesto con il personaggio, senza che vedere un uomo che spara risulti divertente. Per la maggior parte del tempo sentivamo che tutto questo non aveva niente di divertente. Queste persone vivono un'esperienza drammatica l'uno verso l'altro. La comicità viene dopo, ne abbiamo parlato con Roman, che ha assemblato il film in modo che alla fine il pubblico potesse ridere. E questo era John C. Reilly. Kate Winslet, invece, nei panni della mamma del bambino aggressore, donna molto incerta, che ne combina un po' di tutti i colori, anche di tutti gli odori, insomma, poi se vedrete il film ci racconterete, e sentiamo qual è la sua parere invece. Credo che quando sei un genitore e provieni da una famiglia grande e molto unita, come la mia, tutto questo finisca per influire sul tuo comportamento emotivo. Penso di essere inconsapevolmente attratta verso questo tipo di storie, dove ci sono tutti, dove troviamo tutti i membri della famiglia e tutte le complessità delle dinamiche familiari, soprattutto quelle dove ci sono dei bambini. Essendo io stessa una mamma, conosco bene le problematiche scolastiche e so quanto possano essere complesse, quanto a volte possano essere ridicole. Così, quando Roman mi ha chiesto di entrare nel cast di Carnage, quando Polanski ti chiede se vuoi far parte di un suo progetto, non rispondi di no. E non puoi dire no a Roman Polanski, questa è l'ultima affermazione. Come si fa a dire no a Roman Polanski da parte di Kate Winslet? Carnage nei cinema italiani, in anteprima mondiale tra l'altro, perché il film esce prima in Italia, prima di tutto il mondo, e quindi insomma una distribuzione importante, 370 copie, insomma una copertura davvero quasi capillare, da film di primissima fila, come del resto qualitativamente è questo Carnage. Noi siamo arrivati alla finestra aperta sul gioco, sul game, prima traccia del film misterioso di oggi. Anch'io lavorerei sotto di lui. Vorresti lavorare sotto John? Hai un problema anche su questo? No, che problemi può darmi la tua piccola allusione sessuale? Cos'è che ti fa rodere il culo? La rosa purpurea, @radio24.it. Se avete già indovinato di che film si tratta, per provare a vincere il Blu-ray di questo film, scriveteci come sempre anche il vostro indirizzo per agevolare poi le operazioni di spedizione. Più tardi avremo altre due possibilità. 25 anni di matrimonio e non hai niente da dire. Parlo io, sono andata a letto con un altro. Ti ho scioccato, a parlare, ma, mi butto dalla credo macchina. Che quello che ho fatto dimostri quanto siamo distanti adesso. Okay. E quante volte avremo dovuto... Oh mio Dio, Carl! State divorziando? Già. Emmy ti ha sentito piangere in bagno, pensavamo che avessi un cancro. Oh, allora meno male. È solo il mio matrimonio. E allora, Crazy Stupid Love, il film di cui vogliamo parlarvi adesso. Avete sentito una clip, sentite la musica della sua colonna sonora, una commedia molto così ridanciana, molto leggera, e che prende le mosse proprio da un matrimonio che va a rotoli e dal tentativo di quest'uomo di mezza età, che poi è Steve Carell con questa faccia così media, di rifarsi una vita, di trovare una nuova gioventù, e prende come sorta di personal trainer praticamente uno come Ryan Gosling, che invece è uno di quei sciupa femmine che si trovano in giro. Ovviamente arriverà di tutto: sorrisi, beffe, ingiurie e anche un normalissimo happy end. Facciamoci raccontare un po' questo film dal nostro Boris Solazzo, che saluto. Ciao Boris, com'è questa commedia? Crazy Stupid Love, anche se, parliamoci chiaro, sembra più stupid che crazy dalla coppia di registi Ficarra e Qua, è un film alla fine molto godibile, molto divertente. Racconta la storia di un uomo di mezza età che è convinto di vivere nel sogno americano. Peccato che Kevin Bacon lo farà risvegliare in un incubo, scoprendo appunto che la moglie lo tradisce, la figlia probabilmente non lo ascolta, e lui si ritroverà da solo a rinunciare alla sua vita, soprattutto sentimentale. E qui avrà la fortuna di incontrare un ragazzo che è una sorta di professionista che gli insegnerà i segreti dell'amore, o almeno quelli che lui considera i segreti dell'amore, perché questo stesso ragazzo, Ryan Gosling, quando scoprirà l'amore saprà che i suoi più che segreti sono trucchi. È una commedia sentimentale molto divertente per la prima ora, un po' come era successo alla coppia di registi già nel passato film con Jim Carrey e Ewan McGregor. Poi nella seconda ora si perde un po', si riprende però sicuramente con l'ottimo finale nel cortile della casa del protagonista, che comunque si fa assolutamente valere. Alla fine è un film godibile che forse va visto in coppia. È doveroso ricordare quanto fossero giovani. 30 anni fa queste 3 persone hanno avuto il coraggio di affrontare una inimmaginabile malvagità. Stefan Gold era uno dei più giovani comandanti del Mossad. David Koretz aveva festeggiato i 29 anni proprio durante la missione. Rachel Singer aveva solo 25 anni. E così per la prima volta sul campo. Bene, molto bene. Benvenuta in missione. Il loro mandato era quello di catturare il chirurgo di Birkenau, un uomo i cui sadici esperimenti avevano sfigurato o ucciso migliaia di persone. E quello che avete sentito è un po' l'introduzione, quasi una sorta di plot del film di cui vogliamo parlarvi ora in questo inizio di terza parte della Rosa Purpurea, ovvero Il Debito, The Debt. È un remake quasi istantaneo di un film israeliano del 2007. Sentiremo poi John Madden anche raccontare il perché, la necessità di questo remake. Ed è un film di grande intensità, con un cast molto importante che va da Helen Mirren, Tom Wilkinson, a Sam Worthington, alla sempre più importante e quotata Jessica Chastain. L'abbiamo vista a Venezia nel film di Al Pacino. Ora, cosa succede? È una missione, la storia di una missione del Mossad, il servizio segreto israeliano. Siamo negli anni 60 e 3 giovani agenti vengono appunto incaricati di andare a recuperare, trovare e annientare, diciamo così, o quantomeno arrestare il chirurgo di Birkenau, un criminale di guerra, Fogel, un medico che durante lo sterminio degli ebrei nei campi di concentramento ne aveva combinate di ogni colore e di ogni atrocità. La missione viene messa in campo, il chirurgo di Birkenau viene recuperato e tenuto in ostaggio nella Berlino Est, siamo negli anni 60, quindi muro appena costruito, viene tenuto in ostaggio a Berlino Est e bisogna trovare il modo di farlo passare a Berlino Ovest per poi portarselo in Israele e processarlo. Ma la cosa non è ovviamente così facile, e questa è la parte, diciamo, di Spy Story ambientata nel passato. In realtà il film prende le mosse dall'oggi, comincia con una anziana signora che presenta un libro. In questo libro si racconta la storia di questo rapimento, di questo chirurgo di Birkenau, e il rapimento ha un epilogo solo di fantasia, un epilogo che non è stato quello della realtà, ma è la verità che si è affermata attraverso questo libro. Questa signora è Helen Mirren, grandissima attrice. Insomma, scopriamo che per 30 anni questi tre agenti hanno nascosto la verità su quella missione. Come è andata a finire quella missione realmente? Come racconta il libro, in maniera così eroica, o le cose sono andate diversamente? È un fare i conti con il proprio passato, un passato ingombrante che a un certo punto del film torna prepotentemente alla ribalta. Il mondo vedrà quel che lei ha fatto. Stai tremando. Io credo che sia tu ad avere paura, David. Paura del mostro. Boom. Ci hanno seguiti. Oddio! Siamo solo quattro a sapere che è successo qui. La verità deve rimanere in questa stanza. Comunque, tra di noi. E se potessimo tornare indietro? Sarebbe diverso. Non si può tornare indietro. Bisogna saldare il conto. E che vuol dire saldare il conto? È proprio una questione di conti da saldare, insomma, questo film. E allora, il debito, a me sembra un'operazione davvero riuscita, perché ha una parte, intanto queste due linee narrative, queste due linee temporali che continuano ad alternarsi, quindi attori molto bravi, e da vecchi e da giovani, nei panni degli stessi personaggi. E poi una parte centrale proprio da Spy Story, l'uomo in ostaggio, il vecchio ma ancora crudele chirurgo di Birkenau, il tentativo di fuga, dove la regia di John Madden tiene botta assolutamente. E poi una terza parte, che è quella invece dello svelamento della verità e delle conseguenze, perché lo svelamento della verità porterà questi tre ormai anziani, ormai diciamo due ormai anziani agenti del Mossad, a rimettersi in gioco. È un film che ha delle parti ben costituite, che stanno bene insieme, che tengono lo spettatore assolutamente avvinto al grande schermo, soprattutto ovviamente se vi piace il genere. Questo mischia un po' la spy story, un po' anche il film storico, se vogliamo. Dicevamo, dirige John Madden, con direi ottimi risultati. Abbiamo detto prima come ha deciso di fare un remake di un film così recente. Sentiamo sua risposta. The original Israeli film of The Debt is quite a small production made in Hebrew. Il film originale israeliano da cui è tratto The Debt è una piccola produzione girata in ebraico. È davvero un bel film e ho pensato che meritasse un pubblico più vasto. Non volevo essere revisionista. È una storia molto forte e insolita. It's a, you know, fantastically gripping. Un'idea narrativa molto avvincente, ma insolita per questo genere di film. Ha delle complessità emotive, psicologiche e morali, e questo costituisce una combinazione insolita. E sul tema centrale, sulla questione morale che sta al centro del film, John Madden, che lo ricordo fu già regista del premiatissimo e grande successo Shakespeare in Love, risponde così. È difficile parlare del film senza dire cose che non vorresti rivelare, ma riguarda molto il modo in cui le scelte che facciamo a un certo punto della nostra vita influiscono sulla nostra vita successiva. È un tema più vasto e soprattutto un film sulle responsabilità morali, perché il contesto del film è l'eredità dell'Olocausto, soprattutto in relazione ad Israele. Questo è un tema molto forte. Penso che il significato del film parta da questo per arrivare a temi più vasti, che vanno al di là del contesto immediato del film. E allora era John Madden, regista di Il debito nei cinema italiani. Seconda traccia del film misterioso di oggi. È un corso che indaga su cosa porta gli uomini a essere liberi. Non importa a quale costo. Un altro professore lavorava già su Papillon? Lei è evaso di prigione 7 volte. Se avete indovinato di che film si tratta e volete provare a vincere il Blu-ray di questo che è stato un grandissimo successo, La Rosa Purpurea, @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Fra poco avremo l'ultima tranche. Le musiche dal sapore vagamente celtico ci portano in Britannia per raccontarvi un altro film, un altro bel film che esce questo fine settimana, The Eagle, l'Aquila di Kevin MacDonald, con Channing Tatum nel ruolo del protagonista e Jamie Bell, il ragazzino di Billy Elliot, ve lo ricorderete, ormai è diventato grande, nel ruolo di Esca, lo schiavo di questo legionario romano che cerca un riscatto. Nel cast, tra l'altro, anche Donald Sutherland. Allora, raccontiamo un po' di cui si tratta. Il film racconta di questo Marcus Aquila, appunto Channing Tatum, che giunge in Britannia nel 140 d.C., giovane comandante di questa legione sperduta nell'estremo nord dell'impero romano, proprio ai confini del vallo che poi porta dai britanni, che sono barbari e piuttosto cattivi. Perché questa scelta? Lo scopriremo subito. Marcus è il figlio di un grande comandante della nona legione, della mitica nona legione romana, composta da 5.000 uomini, che scomparve misteriosamente, non se n'ebbe più traccia, compreso il comandante, durante una battaglia appunto nel nord dell'impero romano, lì in Britannia, e non si ebbe più traccia neanche dell'aquila, quella del titolo, l'aquila romana, un bastone con quest'aquila d'argento che era il simbolo dell'impero romano, era il simbolo che veniva portato a constatare che Roma lì c'era arrivata. Qual è la missione di Marcus Aquila? Non tanto il fatto di ritrovare il padre o di ritrovare l'Aquila, forse è quella di ritrovare se stesso, di darsi un senso, perché da quel giorno le sorti della famiglia di Marcus sono diventate progressivamente sempre meno brillanti, perché il nome era infangato da quest'onta di avere perso l'Aquila, di aver perso gli uomini, di non avere più dato traccia di sé. Quello che combina Marcus è importante, perché un giorno, durante una sua sorta di rito di schiavi, salva dalla morte certa uno schiavo, appunto Esca, un britanno interpretato da Jamie Bell, lo fa diventare sostanzialmente il suo migliore amico, si fida di lui, nasce una forte amicizia, e loro due, sfruttando anche la lingua e la conoscenza dell'esca e dello schiavo, supereranno il vallo, si inoltreranno in Britannia a ricercare l'aquila e il padre, che non c'è più. È per questo che sei qui? Per trovare tuo padre? No. Siamo qui per trovare l'aquila. Come può un pezzo di metallo contare tanto per voi? L'aquila non è un pezzo di metallo. L'aquila è Roma. Un simbolo del nostro onore. Ogni vittoria, ogni singola impresa. Dovunque sia l'aquila, possiamo dire: Roma ha fatto questo. E allora, questo è il proposito di Marcus Aquila. È un film di grandi attese, è un film nella quale i silenzi contano molto di più delle parole. Ho avuto la fortuna di vederlo qualche mese fa in anteprima in lingua originale. È un film dove i suoni sono straordinari. Speriamo poi che la versione doppiata renda questa grande sospensione dell'atmosfera. È un film che va oltre la storia, il peplum, la questione, la vicenda, l'impero romano, eccetera, o le battaglie, che tra l'altro sono dirette e riprese in maniera veramente molto cruda, molto efficiente, con un montaggio che le valorizza. È un film molto intimista, per assurdo, pur essendo un lavoro che piacerà sicuramente a chi ha amato Il Gladiatore, ma qui c'è meno retorica e c'è un respiro cinematografico più sporco, più graffiato, un pochino più realista, se vogliamo, sicuramente meno patina del grande film di Ridley Scott. Bravissimi due attori, che dire, Channing Tatum magnetico nel ruolo di Marcus Aquila. Era abbastanza bizzarro sentire recitare in inglese un film ambientato durante l'impero romano, ma insomma, fa niente. E Jamie Bell, come dicevo, il ragazzino di Billy Elliot, che è cresciuto davvero e che è diventato un attore poi di impersonare anche un cambio di ruolo importante, repentino, che c'è quando i due arrivano in Britannia, dove sostanzialmente Marcus diventa lo schiavo di Esca, e allora lì i caratteri e le personalità devono confrontarsi con una variazione importante. Insomma, un film assolutamente godibile da seguire nelle sale italiane. Quarto blocco della Rosa Purpurea, come sempre dedicato alle visioni domestiche, ai film da vedere in casa, in televisione e in on video. Cominciamo con la TV, cominciamo con i palinsesti della prossima settimana del digitale terrestre, come sempre assolutamente free, gratuiti per andare a vedere o rivedere il grande cinema. Abbiamo messo fuori un paio di propostine questa settimana con gli amici di Film TV, davvero interessanti. È in collegamento con noi Nicola Cuperi, che saluto. Ciao Nicola. Ciao Franco, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 24, qua dalla redazione di Grazie, grazie a voi. Due segnalazioni molto diverse, per segno anche cinematografico, ma con grande calore. Da una parte cominciamo con un omaggio a un regista che se n'è andato un po' così alla chetichella in un periodo dell'anno, agosto, nella quale magari anche l'informazione è meno pressante, ma molto prematuramente, aveva solo 70 anni, Raúl Ruiz, grande regista cileno di raffinata mano, e noi per omaggiarlo vi segnaliamo un film di Raúl Ruiz, forse uno dei suoi capolavori, I misteri di Lisbona, che passa in TV questa settimana. Dici bene Franco, I misteri di Lisbona è un film incredibile, Raúl Ruiz è uno dei registi più sottovalutati della storia del cinema, e viene recuperato in televisione grazie a Rai 3, grazie a Fuori Orario, che lo trasmette venerdì e sabato in due puntate all'1:35. Sostanzialmente Misteri di Lisbona ha una trama molto complessa, per asciugare un attimo è l'autobiografia di Pedro, un ragazzo che scopre la storia della sua famiglia dopo anni passati in orfanotrofio accudito da padre di Nice, la cui vita a sua volta è immersa nel mistero. Ecco, questo diciamo è il canovaccio da cui si struttura una narrazione veramente complessa che dura più di sei ore, perché Ghezzi con Fuori Orario ha deciso di trasmettere la versione televisiva integrale in due puntate. È il testamento artistico veramente di uno dei maggiori cineasti della storia. Salto veramente carpiato con doppio avvitamento per andare invece a Johnny Guitar, per tornare indietro nel tempo al 1954, quando Nicolas Ray incantava con questo western totalmente anomalo. Il film verrà trasmesso su Rai Movie alle 23:15 di domenica. Racconta la storia di Johnny Logan, un pistolero chitarrista soprannominato appunto Johnny Guitar, che arriva nel locale gestito da una vecchia amante, Vienna, una donna di grande polso, molto, molto aggressiva e indipendente, che è accusata dagli abitanti del paese di dare rifugio nel suo saloon a una banda di rapinatori. A guidare la carica popolana è Emma, un'altra donna altrettanto aggressiva e determinata. E il film di Ray è un western assolutamente barocco, dall'estetica aggressiva e dall'andamento sinusoidale quasi, e molto ipnotico. La messa in scena, soprattutto nell'uso del colore e degli spazi, è straordinaria. Così come incredibile è la coppia di protagoniste interpretate da Joan Crawford e Mercedes McCambridge, e anche l'idea di mettere come protagonista di un western appunto due donne, che venne molto criticata all'epoca. Grazie Nicola Cooper di Film TV, appuntamento alla prossima settimana con le segnalazioni in TV. Grazie a te Franco e un saluto a tutti gli ascoltatori. E allora, da Film TV e dalle segnalazioni televisive, noi passiamo al nostro game, perché c'è da ascoltare la terza e conclusiva traccia di oggi. Che razza di criminale guida una Prius? Uno socialmente responsabile? Ce ne sono oltre 1000 immatricolate in città e 7000 nello Stato. Quante immatricolate da delinquenti? 6 nello Stato, 4 da malversatori, criminali dal colletto bianco, una da uno stupratore, una da un'assassina. Comincia con l'assassina. È straordinario questo passaggio del nostro film misterioso di oggi, La Rosa Purpurea, @radio24.it è l'indirizzo per provare a dire di che film si tratta e provare a vincere il Blu-ray di questo film. Così come 7 giorni fa avevamo fatto con questa clip. Roman, perché ci hai messo tanto? Pensavo che saresti arrivato almeno con i cerchioni cromati. Divertente. Scommetto $100,000 che vi batto nel prossimo quarto di miglio. Facciamo 1 milione. Mi piace. E allora si trattava di Fast and Furious 5, il Blu-ray con cui abbiamo giocato la scorsa settimana. Hanno indovinato Matteo Ferrazzi di Valstagna, provincia di Vicenza, e Fabrizio Russo di Trento, che riceveranno il Blu-ray di Fast and Furious 5. Facciamoci raccontare un po' questa edizione in un video dal nostro Claudio Pofi, che è in collegamento con noi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, edizione alta definizione di eccellente realizzazione da parte di Universal, immagini sono veramente superlative, prossime al riferimento, l'audio già esplosivo in DTS per l'italiano, ancora meglio l'originale inglese perché in DTS ad alta risoluzione, sono veramente tanti gli extra, tra cui segnaliamo il commento del regista, visione immagine nell'immagine durante il film con vari approfondimenti sulla lavorazione, ci sono ovviamente focus sugli effetti speciali e gli stuntman e sui personaggi e le scene tagliate. E allora andiamo invece alle recensioni di questa settimana. È stata presentata recentemente una grande operazione su Marco Bellocchi, uno dei più significativi registi del cinema italiano. Proprio a Venezia c'è stata la possibilità di presentare, di vedere questi due cofanetti del grande regista piacentino. Sentiamo una clip del suo film forse simbolo, I pugni in tasca, e poi ne parliamo. Prova soltanto a immaginare, Augusto, se tu fossi solo, senza noi quattro. Per la prima volta nella tua vita potresti pensare a te stesso, da uomo a uomo. Perché deve avvelenarti l'esistenza per noi? E allora per la Marco Bellocchio Collection, il volume 1 che comprende I pugni in tasca, Vacanze in Valtrebbia, Addio del passato e Sorelle mai, mentre il secondo volume, L'ora di religione, Buongiorno notte, Il regista di matrimoni e Vincere. Notevole la qualità video per tutte le opere, anche per I pugni in tasca, nonostante il bianco e nero del 1965, sono tracce audio rispettose dell'originale lavorazione con Dolby Digital due canali oppure multicanale. Agli appassionati segnaliamo alcuni extra di grande rilievo, come la prima versione del film Sorelle, varie interviste al regista o il commento di Bellocchio ai pugni in tasca, in cui il DVD contiene anche la tesi di laurea del maestro Bellocchio al Centro Sperimentale di Cinematografia. Beh, insomma, davvero documenti eccezionali, oltre alla grande portata dei film di questi cofanetti. Parliamo invece di un fumetto tanto amato dall'Italia degli anni 90 in poi, che è diventato film con produzioni tra l'altro estere proprio nella scorsa stagione. Stiamo parlando di Dylan Dog. Va bene, Dylan, ascolta! E questo è il primo vero caso che vediamo da anni, ok? Qualcuno a cui serve davvero il nostro aiuto. È esattamente di questo che parlo, una cosa diversa, una cosa migliore, non è quello che vogliamo. No, io no. No, tu no. Perché le cose nella vita non migliorano, va bene? O rimangono come sono o peggiorano. Dylan Dog ha abbandonato il mestiere di indagatore dell'incubo, stanco di creature infernali, di zombie, si è trasferito da Londra a New Orleans con il suo assistente Marcus. Decide tuttavia Dylan di tornare a indagare nel mondo del paranormale quando viene contattato da una giovane che sostiene che il padre è stato ucciso da un mostro e Dylan dovrà, tra le altre cose, decifrare un antico manufatto col potere di spazzare via l'umanità. Lontani dal mondo di sclavi, del fumetto per personaggi e situazioni, il film si lascia comunque guardare, anche se difficilmente rimarrà scolpito nella memoria degli amanti dell'omonima serie cartacea di Bonelli Editore. Da Mondo Home Entertainment e l'edizione DVD, ma soprattutto Blu-ray, quest'ultimo con notevole qualità anche nei momenti più bui e tracce di TS alta risoluzione anche in italiano. Tra gli extra segnalo un making of, interviste al cast e uno speciale sulla lavorazione. Grazie Claudio, ben ritrovato qui alla Rosa Purpura, appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto! E si chiude qui la nostra ora di cinema qui su Radio 24. La Rosa Purpura torna la prossima settimana alle 18 il sabato, alle 15 la replica della domenica. Eccezionalmente domani però la nostra replica durerà meno perché abbiamo da dare spazio ai programmi del Pre Italia. Un saluto da Franco D'Assisti.